Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Nella domenica che precede il Natale e chiude l'ultimo weekend di dicembre dedicato agli acquisti natalizi, quella di oggi è una puntata speciale, monotematica. Facciamo il punto su numeri e tendenze che raccontano questo Natale 2012 dal punto di vista dei consumi. Tra budget ridotti all'osso e caccia all'affare, soprattutto online, scopriremo che cosa è degno di nota quest'anno, a partire dalle notizie e curiosità di questa settimana. Anche i colossi della moda low cost risentono della crisi. H&M frena ancora nell'ultimo quarto dell'anno. Meno 1% le vendite nei 2.776 negozi della catena. Fatturato natalizio in crescita, invece, per le vendite a domicilio. Più 8% circa rispetto al 2011, secondo i dati Univendita, la principale associazione di categoria. Il settore che ha trainato le vendite natalizie è stato quello dei beni per la casa. Dall'Istat, intanto, arriva una nuova conferma sullo stallo dei consumi in Italia. Frena la spesa delle famiglie nel 2011, meno 1,2% rispetto al 2010. Secondo il Codacons, in termini reali si tratta di una riduzione di 420 euro, a vantaggio, purtroppo, delle spese obbligate che gravano sulle famiglie. Natale in saldo a Parigi. Per la prima volta i grandi magazzini Galerie Lafayette e Printemps, templi dello shopping d'Oltralpe, hanno lanciato la campagna sconti di Natale. Dal 30 al 50% nel reparto moda, il più colpito dalla recessione. Champagne, ostriche e foie gras in promozione, inoltre, nelle insegne della grande distribuzione. Dopo lunghi mesi di rumors e smentite, il matrimonio tra Marni e Renzo Rosso Group è ufficiale. La Maison ha ceduto la quota di maggioranza alla holding dell'imprenditore vicentino, che conta già nel suo bouquet, oltre a Diesel, Martin Margiela e Victor Rolf. McDonald's si prepara ad aprire 100 nuovi fast food in Italia nei prossimi 3 anni. Secondo la multinazionale, daranno lavoro a 3.000 persone. La borsa della spesa. Li vuole lei? Avanti, li prendo. Non importa. È l'ultimo paio. Mi scusi, avete un altro paio di guanti di cashmere? La merce disponibile è tutta esposta. La prego, insisto. Li prenda lei. Mi scusi, signore. Sì? Questi sono nostri. Sono vostri? E come mai? Esatto. Sì, insomma, erano ancora lì appesi, buoni buoni, con il talloncino del prezzo. Stia calmo. 5 giorni prima di Natale in un grande magazzino di New York. Questo mi chiede di stare calmo. Corsa all'ultimo regalo qualche giorno prima di Natale. Scene d'altri tempi, il film Serendipity è del 2001. Quello di quest'anno, lo dicono ai noi molti indicatori, è il Natale peggiore degli ultimi anni, con un potere d'acquisto delle famiglie praticamente a picco. Dal 2008 è calato, pensate, del 13%, con le tredicesime quando ci sono mangiate dalle spese di fine anno. Un Natale più povero e arrabbiato, dice il Censis, con livelli di consumo tornati indietro di 15 anni. Nonostante questa situazione, sottolinea però Confcommercio, un italiano su due non rinuncia ai regali di Natale e in questi giorni portano a casa il segno più alimentari e giocattoli, segno meno invece per l'abbigliamento. Ma 7 italiani su 10, dice Confesercenti, spenderanno meno dell'anno scorso. Il presidente Marco Venturi. Sarà un Natale in linea con la crisi e quindi le difficoltà si accentuano, i consumi calano, soprattutto cala la spesa media, quindi per ogni regalo che si prende, e quindi questo creerà un problema sicuramente non solo, diciamo, alle famiglie che stringono la cinghia, ma anche alle imprese che vedranno, diciamo, una difficoltà maggiore rispetto agli altri anni. Una crisi lunga che porta molto spesso le famiglie o per la casa o per altri acquisti o per altri problemi a indebitarsi, e quindi è chiaro che questo incide in maniera significativa. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go, Let it snow, let it snow, let it snow. Risparmio e caccia all'affare, le parole d'ordine che spiegano il successo degli acquisti online, preferiti quest'anno da 5 milioni di italiani, 500.000 in più rispetto al 2011. Una ricerca condotta da Ipsos per eBay Annunci boccia i regali costosi e inutili che il 44% degli italiani dichiara di ricevere ogni anno, a favore invece di quelli usati o riciclati purché utili, che il 55% degli intervistati non disdegnerebbe. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Riciclare oggi è uno stile di vita che in tempi di crisi, riuso e baratto non è più una cosa da nascondere. Una tendenza questa confermata anche da un'analisi Coldiretti SVG, secondo cui più di un italiano su tre ricicla i regali. Sara Paraluppi. La tendenza per questo Natale è quella di riciclare, o almeno il 36% degli italiani hanno confessato di riciclare i regali che ricevono, parte dei regali che ricevono, mentre il 51% dice di non farlo. È chiaro che al di là dei dati e dei numeri ci sono articoli che con più facilità si possono riciclare, abbigliamento, anche in taluni casi la tecnologia, mentre è più difficile che le persone riciclino cibi, il classico regalo agroalimentare, quindi la bottiglia di spumante o il panettone, perché comunque sono prodotti nella maggior parte dei casi a lunga scadenza che possono essere utilizzati anche dopo il Natale. In molti casi vengono venduti i prodotti direttamente su internet. Si sta aprendo anche una strada importante che è quella della solidarietà. E il riciclo va di moda anche a tavola per ridurre gli sprechi alimentari. Solo l'anno scorso, dice la Confederazione Italiana Agricoltori, tra il 24 dicembre e l'Epifania sono finite nei cassonetti 440.000 tonnellate di cibo per un valore complessivo di quasi 1,5 miliardi di euro, più di 50 euro a famiglia. Quest'anno oltre il 60% delle famiglie dichiara che farà molta più attenzione adottando i trucchi delle nonne per non buttare via gli avanzi. E così panettone e pandoro diventano ottime basi per torte e tiramisù, il pane avanzato, bruschette, pancotto, panzanella, verdure e pasta ottime frittate. Sentiamo lo chef antispreco Antonio Tubelli. La cucina senza sprechi, nell'accezione della tradizione, si riferisce soprattutto al grande rispetto dei prodotti che si avevano. Io credo che il simbolo, no, di questa cucina senza sprechi, di questi prodotti da rispettare, è il pane. Il pane ha una vita indistruttibile per certi aspetti, no? Che nasce da pane fresco che tu accompagni nelle tue preparazioni facendo quello che una volta si chiamava la famosa scarpetta, che oggi è diventato molto difficile fare perché sughi atti a fare le scarpette se ne ritrovano molto di meno. Era una volta raffermo, faceva parte, diciamo, del pane inzuppato in delle preparazioni di acqua, alloro e aglio, per esempio, l'acqua cotta. Poi quando si essiccava in modo improponibile per altre preparazioni diventava pane grattugiato, quindi aveva una vita lunghissima. Secondo me il pane è l'emblema di questo, e se noi guardiamo al pane riusciamo a ritrovare negli alimenti che utilizziamo parti utilizzabilissime. Pensa alle coste della verza, ai gambi delle torselle, pensa alle foglie rosse delle carote. Io credo che questa parte tutta da scoprire è anche l'elemento incentivante per la fantasia di noi che lavoriamo in cucina. Niente spese folli quindi per salmone, ostriche, caviale e frutta esotica in stile anni 80 e 90, a vantaggio dei prodotti del territorio. Le associazioni dei consumatori invitano a vigilare sui rincari anche dove non te li aspetti, sottolinea ad esempio l'Unione Nazionale Consumatori, che pubblica sul proprio sito un interessante vademecum sui rincari natalizi. Lo trovate anche sulla nostra pagina Facebook. Anche nel carrello della spesa di Natale, a conferma di una tendenza ormai consolidata, trionfano le cosiddette private label, le marche private, i prodotti con il logo della catena distributiva, cresciute negli ultimi anni di quasi il 20%. Camillo De Berardinis, presidente di ADM, Associazione Distribuzione Moderna, l'associazione che raggruppa tutti i retailer che operano in Italia. Negli ultimi anni, l'abbiamo visto, c'è un'attenzione crescente dei consumatori verso le offerte della marca commerciale. Noi fra l'altro abbiamo fatto un'analisi, abbiamo costruito un paniere della spesa di Natale e l'abbiamo messo a confronto, diciamo, con i prodotti di marca. Il risparmio medio che viene fuori è un risparmio del 27%, quindi stiamo parlando di valori importanti per una famiglia. Noi pensiamo che potranno dare una risposta all'esigenza delle famiglie di garantire anche per le festività prezzi competitivi e prezzi più bassi a fronte di una qualità eccellente e di una ampiezza di offerta anche che si è consolidata in questi anni. Abbiamo tanti nomi e prendiamo tante forme diverse. Siamo Sandman, la fata del dentino, il coniglietto di Pasqua e Babbo Natale. E abbiamo poteri più grandi di quanto possiate immaginare. Di nuovo in studio con Essere Avere, con uno dei film simbolo del Natale 2012, Le Cinque Leggende, targato DreamWorks. Apriamo il focus sui trend di questa puntata, tutto dedicato ai consumi natalizi. Facciamo il punto sulle tendenze di questo Natale 2012. Lo facciamo come sempre in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno, auguri a tutti. I consumi natalizi raccontano molto dell'anno che vanno a chiudere, rivelano lo stato di salute dell'economia, ma sono anche una cartina di tornasole per le nuove tendenze. Dall'e-commerce al fai da te, dalla condivisione alla solidarietà, scopriamo le parole chiave di questo Natale 2012. Patrizia. Natale di austerità, anche quest'anno, un dato che si conferma, voglia di regali, di shopping, di feste, ma evidentemente potere di spesa risicato. Ci sono però degli alleati per attraversare il Natale senza troppe frustrazioni e sono tutti in rete. L'e-commerce, il social shopping, il couponing, i club di vendite private, eccetera. Lo shopping online è sempre più inteso dai consumatori come modo pratico, veloce e conveniente da utilizzare anche e soprattutto in occasione del Natale. Come abbiamo sentito anche nella prima parte, gli ultimi dati Netcom rivelano che a Natale saranno oltre 5 milioni gli italiani che faranno regali comprando sul web, 500.000 in più rispetto alla scorsa stagione 2011. Quest'anno dunque il Natale degli italiani sarà multicanale. I consumatori multicanale cosiddetti sono il 53% della popolazione, un più 13 sul 2011, sono i dati dell'ultima rilevazione del Politecnico di Milano. Dunque si usa il canale digitale per informarsi, per comparare prezzi e per acquistare. Iniziativa unica nel suo genere, un sito di e-commerce specializzato in vendite private online di grandi marchi che diventa un canale di promozione musicale con una vendita evento. Il sito è Vent Privé, scelto da David Bisbal, grande artista pop spagnolo, vincitore della Time Grammy all'ultima edizione del prestigioso premio, per il lancio del suo ultimo album, che viene proposto ai 17 milioni di membri a un prezzo speciale e accessibile, 7 euro. Dicevamo Natale di austerità, si taglia su svaghi i regali ad amici e parenti, si salvano dai tagli i regali per i bambini, anche se protagonisti importanti sono i regali cosiddetti transgenerazionali, uno su tutti i tablet utilizzati dai piccoli nativi digitali e contemporaneamente dagli adulti, che diventano così un regalo per più utenti. Il regalo high-tech più gettonato negli Stati Uniti quest'anno, in piena tendenza do it yourself e autoproduzione domestica, le stampanti 3D, quelle per fabbricare oggetti o replicarli direttamente da casa propria, per esempio decorazioni natalizie, stelle, palle, alberelli di qualsiasi foggia e dunque personalizzabili. Altro alleato per la regalistica, la startup bresciana FaiUnRegalo.it, che ha creato un portale collegato ai social network, in cui acquistare regali, ce ne sono a catalogo 40.000, con un servizio molto interessante e unico tra i portali di e-commerce del settore. Un suggeritore che analizza i like degli amici su Facebook e dunque propone i regali più adatti a loro. L'economia digitale tende una mano anche al piccolo artigianato di qualità. Tecnologia e fare manuale ormai, sappiamo, è un connubio vincente sia per la produzione che per la distribuzione. Neonato portale e-commerce belvi.com, che promuove il Made in Italy, quello fatto in Italia. Hanno aderito più di 60 imprenditori e offre una selezione di oltre 700 prodotti artigianali che spaziano dall'enogastronomia alla moda alla casa, in cui si mescola il pezzo da pochi euro a quello che, diciamo, non ha prezzo. Interessante operazione italiana sulla scia del modello di business e del grande successo di Etsy.com, il notissimo marketplace. Un'altra delle parole chiave del Natale, come di tutto il 2012, sottolinea il Censis, sarà solidarietà. Solidarietà che fa il suo ingresso ora anche nei modelli di business. Perché fra le cose buone, e ce ne sono portate dalla crisi, c'è sicuramente un'istanza che guarda alla necessità di una ridistribuzione più equa delle risorse, non solo in termini di cibo e di energia, ma anche di capitali e di ricchezza. Ne abbiamo parlato con Bill Niada, fondatore di NIAR, una social business company che opera nel mondo dei retail. Noi abbiamo praticamente dei social outlet, degli outlet online, facciamo dei temporary outlet all'interno di aziende, e parte del ricavato e poi il 50% degli utili vanno a finanziare dei progetti sociali che prevalentemente si occupano di bambini. Quali ricadute hanno sulla società i capitali investiti in imprese sociali? Il concetto in questo caso è che il denaro non viene donato una volta e quindi ha l'effetto una volta sola, ma viene investito in un'azienda che, cercando di fare il proprio lavoro, perché questa è un'azienda normale, continua a generare questo denaro. Quindi la filantropia può entrare nei modelli di business? Me lo auguro. Me lo auguro perché non ci sarebbe niente che l'ostacoli. Spesso chi dona del denaro magari è un imprenditore che ha avuto successo nella vita e che quindi ha generato denaro, oppure una persona, un'azienda che dice: vabbè, ho fatto degli utili più alti, quindi questa parte la dedico a aiutare un progetto sociale. Sarebbe un passaggio in meno se direttamente l'azienda, all'interno delle proprie attività, prevedesse la filantropia, quindi un processo di aiuto al territorio. Patrizia, e-commerce e solidarietà, lo abbiamo sentito fra le parole chiave di questo Natale, due tendenze emergenti che possono andare anche a braccetto. Sì, le iniziative sono naturalmente moltissime. Una in particolare è quella fatta da Francesco Vezzoli, uno degli artisti contemporanei italiani più affermati a livello internazionale, che ha realizzato con Yux.com, il sito di e-commerce di moda, design e arte, il suo primo multiplo. 399 esemplari numerati e firmati al prezzo di 399 euro l'uno, il cui ricavato sarà devoluto interamente al FAI, Fondo Ambiente Italiano, per la ricostruzione del Palazzo Comunale di Finale Emilia, danneggiato, come noto, dal recente terremoto. Regali pacifisti, poi, per finanziare interventi contro le guerre, in particolare in Africa, sono i gioielli della linea Phoenix, creata da un designer francese per il marchio americano Fonderie 47, usando l'acciaio di Kalashnikov dismessi come materiali associati poi a diamanti, oro e pietre preziose. Venduti all'asta per molte migliaia di euro, fino a centinaia, i proventi finanziano appunto una ONG britannica che finora è riuscita a eliminare 18.000 armi in Burundi e nel Congo, soprattutto dalle mani dei bambini. Altra parola chiave: sostenibilità, che ormai, diciamo, non fa più notizia, essendo un concetto sia in termini di comunicazione che di prodotti ormai dentro le aspettative dei consumatori, che certo ne riconoscono il valore, ma che in sé non è già più così elemento differenziante. E anche sul piano simbolico, gli alberi di Natale ecosostenibili mobili in cartone, con le bottiglie di plastica o con gli oggetti dismessi più disparati, come quello per esempio di 9 metri per 6 realizzato ad Hasselt in Belgio con 5.000 piatti e tazze in porcellana donati dagli abitanti, certo colpiscono e confermano quanto abbiamo metabolizzato tutte le forme espressive e le pratiche appunto sostenibili. Per un Natale eco all'insegna della sostenibilità ambientale e nello specifico della tutela degli animali, il WWF invita a regalare un elefante, un ghepardo, un gorilla, animali in via di estinzione che si possono adottare a distanza con un costo di 30 o 50 euro. Iniziative simili per molte ONG che offrono regali solidali, valida alternativa agli oggetti inutili che, come dicevamo, quest'anno non verranno regalati. Basta consultare i siti di Oxfam, InterSOS, Fondazione Rava, UNICEF, Save the Children, Terre des Hommes, solo per citarne alcune. E a Natale non possiamo non citare Coca-Cola, che come sempre ci stupisce per le iniziative di marketing esperienziale che riesce a inventare. Abbiamo già citato in altre puntate il distributore automatico che rilascia lattine in cambio di abbracci, ora sempre facendo leva sul baratto, sullo scambio non mediato dalle monetine, a Stoccolma speciali vending machine che regalano una bibita a chi canta loro proprio ai distributori, una canzone natalizia. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Tokyo sui consumi natalizi? Questo è il momento della nostra Urban Watcher. Alessia Zampano, ciao Alessia. Ciao, un saluto e buon Natale a tutti. Fino al 25 dicembre nel flagship store di Muji, il noto brand giapponese di abbigliamento e oggettistica per la casa, si può ammirare un inconsulto manufatto natalizio. Una cittadina in miniatura, interamente costruita di pan di zenzero e di 15.000 dolcetti prodotti dal marchio. La riproduzione è curata nei minimi particolari. C'è la ferrovia con l'immancabile trenino, 100 casette, le balle di fieno e piccoli abitanti che spalano la neve, vanno al lavoro e chiacchierano con i vicini. Ma non solo chi entra fisicamente nel negozio può osservare questo delizioso diorama, perché l'installazione è interattiva. Al suo interno infatti sono state inserite delle micro telecamere che riprendono il piccolo villaggio 24 ore su 24 e ne riproducono la visione in tempo reale su un sito appositamente creato, chiamato Muji Homemade, fatto in casa. Ma non è tutto. Anche gli utenti, usando Twitter o Instagram, possono contribuire a dare vita a questa piccola comunità. Taggando infatti i loro tweet o le loro fotografie con l'hashtag Muji Christmas, li vedranno magicamente apparire non solo sul sito web, accanto al live stream, ma anche su piccoli schermi digitali che animano le strade di questa microcittà. Grazie Alessia. Patrizia, noi lo andiamo dicendo da tempo. La crisi ha cambiato profondamente, in modo irreversibile, le abitudini di consumo e i consumi natalizi ne sono la riprova. Qual è l'atteggiamento che ritroveremo anche nei prossimi mesi? Ce lo dice il Censis, che ha definito le famiglie italiane nell'ultimo rapporto come le famiglie delle tre R: risparmio, rinuncio, rinvio. La sintesi comincia anch'essa con la R, restanza. Il Censis parla di restanza, cioè mobilità, stagnazione sia nei consumi che negli atteggiamenti. Certo, il consumatore ha un budget ridotto, ma allo stesso tempo diventa più razionale, come abbiamo visto, e usa, essendo smart, strategicamente e sapientemente, internet, l'e-commerce, le promozioni, ma non a discapito della qualità, questo va sottolineato. Un italiano su sei, il 15%, è iscritto a gruppi d'acquisto online che offrono beni e servizi a basso costo, comprese le cene stellate. E questo per il Natale è un dato interessante. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, la potrete riascoltare come sempre sul sito, sulla nostra pagina Facebook. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento come sempre a domenica prossima. Da Maria Luisa Pezzali l'augurio per un felice Natale.